Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Vi ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione e ora andiamo con quella che è la sigla di questo programma. Scusate se ho parlato sopra, probabilmente non si sentiva quello che ho detto, comunque il programma è iniziato ora, questa era la sigla iniziale, ovvero Retribution dei Behind Enemy Lines, e come già detto andremo avanti fino alle 21.30. Ora invece andiamo all'ascolto di questa band tedesca, gli Unbunker. E da un loro 7 pollici datato 2013 ci ascoltiamo uno o due brani. Altra particolarità di questa band è che il cantante è di origine croata, anche se è nato in Germania, comunque che all'interno di questo disco ci sono anche dei brani, un, due, tre brani cantati in croato. Comunque, Am Bunker dalla Germania. Per la prima corrispondenza siamo al telefono con un compagno anarchico del Trentino che salutiamo. Buongiorno. Ciao, ciao a tutti e a tutte. Ciao a te, ti ringraziamo insomma per questa corrispondenza che viene fatta anche insomma in viaggio, quindi grazie per la disponibilità. Siamo qui per parlare di una condanna pesantissima a un compagno, Juan, e quindi insomma intanto ti lasciamo la parola per raccontare un po' di chi è Juan e quello che è successo. Sì, allora Juan è un compagno anarchico che ha vissuto in Trentino per molti anni, quindi lo conosco molto bene. Lui è stato arrestato nel maggio 2019 dopo che si era dato latitante, e la sua latitanza era durata all'incirca 2 anni e mezzo. Si era dato latitante perché doveva scontare un cumulo di pene che arrivava a 8 anni. E poi viene arrestato insieme a un altro compagno, Manu, che si fa anche lui poi in occasione 10 mesi di carcere per favoreggiamento alla sua latitanza. E Juan, nel momento in cui viene arrestato, viene a sapere di questa indagine nei suoi confronti rispetto ad un attacco avvenuto nella sede della Lega di Torba, che è la sede provinciale di Treviso. E l'accusa nei suoi confronti sono inizialmente quella di strage, l'articolo 285 e l'articolo 280 bis, attentato con finalità di terrorismo. Il suo processo inizia più o meno un anno dopo e è arrivato adesso, proprio la settimana scorsa, alla conclusione del primo grado, con una sentenza nei suoi confronti di 28 anni. Il 28 anni, insomma, lo sottolineiamo perché è una sentenza abnorme, insomma. È una sentenza enorme e da un certo punto di vista inedita, anche se non altro, nei fronti del movimento anarchico degli ultimi decenni, se vogliamo, anche per il capo d'accusa per cui è stato poi condannato, perché il reato di strage è stato. Da quel reato è stato morto e lui è stato condannato per 280 bis, con ovviamente tutte le specifiche su l'utilizzo del porto di esplosivi, tutte con la finalità di terrorismo, e dunque poi è arrivato a quella condanna. La cosa da sottolineare forse più significativa è il fatto che in ambito processuale, alcuni di noi hanno seguito anche bene il processo, è sembrato palese che nonostante la difesa avesse messo un altro apparentemente in serie difficoltà le accuse poste, sembra che i giudici abbiano proprio preso le richieste dei PM e così come erano le hanno accettate. Lui è stato condannato a 28 anni più 3 anni di libertà controllata, quindi sostanzialmente 30 anni. Una cosa da dire anche importante è che nel febbraio di quest'anno, quindi del 2022, lui viene sottoposto ad un'altra indagine che lo vede imputato sempre per 280 bis, per invece un attacco avvenuto nel 2014 di sorveglianza di Trento. Se posso permettermi di aggiungere giusto due cose rispetto a questo, quell'attacco era stato seguito poi da una rivendicazione che spiegava un po' i motivi per cui nello specifico era stato colpito il Tribunale di Sorveglianza di Trento, e in quegli anni lì, nel 2013-2014, c'erano state diverse morti o tentativi di suicidio nel carcere di Spini di Gardolo, proprio perché praticamente qualsiasi richiesta che veniva dai detenuti per accedere a delle misure alternative, anche qualora avessero avuto il diritto di accedervi, venivano sempre negate dalla magistratura di sorveglianza, e le responsabilità erano evidenti e ben presenti a tutti quali fossero le loro responsabilità. E quell'attacco si inserisce, diciamo, in quel contesto e sottolinea quelle responsabilità. Ad oggi sappiamo che Juan è imputato anche di questo, per questo attacco. È ovvio, può darsi, insomma, che la sentenza di Treviso possa anche influenzare questo ulteriore procedimento, nonostante poi gli indizi di prova siano quasi nulli, insomma, però sì, il timore che possa anche influenzarle è tutto concreto, anche perché dopo un processo in cui appunto vengono recepite tutte le richieste dell'accusa senza tenere in grande considerazione la difesa, adesso insomma il timore è molto concreto per quest'altro processo. Certo, ma infatti poi penso che sia importante sottolineare, per il momento, a parte il fatto che sono avvenute due sentenze, quella di Cassazione per l'operazione scritta malamente e quella nei confronti di Quan, seppur di primo grado, nella stessa settimana, e al di là del colpo al cuore, insomma, è evidente come in entrambi i casi siano sostanzialmente state prese le considerazioni dell'accusa e la difesa come se non fosse neanche esistita, e rispetto a delle valutazioni su questo sicuramente almeno crediamo alcuni di noi hanno provato a ragionare anche riguardo a questa accelerazione repressiva, al di là del ruolo, diciamo così, di una repressione sociale che poi si trasforma anche in repressione selettiva nei confronti di una minoranza gente che sono gli anarchici in questo momento, sicuramente il ruolo dell'istituzione della direzione antimafia e antiterrorismo nazionale ha avuto un peso, un suo peso, tant'è che già nel 2019, per fare un esempio, l'operazione per 270 bis che si era aperta in Trentino aveva visto poi una conferenza stampa proprio portata avanti dalla direzione antimafia e antiterrorismo fatta a Roma, e era una cosa comunque inedita, e quindi questa centralizzazione, diciamo, di quel determinato potere sicuramente ha più efficacia nel momento in cui lo Stato vuole arrivare a delle conclusioni e a, va bene come dire, ma voler chiudere i conti con la conflittualità anarchica. Sì, tanto appunto da usare sentenze, quella di Cassazione, di cui insomma da questi microfoni abbiamo parlato ampiamente, trovate i podcast sul sito di Scripta Manent, e questa nei confronti di Quan, questa con pene assolutamente appunto, come dicevamo, enormi, e come dire, senza, pur non avendo nessuna fiducia in quello che può essere la giustizia istituzionale, eccetera. Penso che a chiunque possa risultare quanto è enorme una pena che poi diventa di 30 anni per reati che, anche appunto, se venissero appurati, di fatto insomma non hanno portato danni a nessuna persona. Sì, certo, poi vabbè, per fare un esempio, per dire rispetto ad Alfredo e Anna, il reato è stato qualificato in strage politica, e solo per ricordarci, nemmeno per la strage di Capaci è stato ipotizzato quel tipo di reato, ma quella era strage comune, per fare dei paragoni, giusto per capire in che direzione sta andando la repressione nei confronti degli anarchici. E credo che sia piuttosto indicativo, al di là di una valutazione di giudizio sulla giustizia, però è piuttosto indicativo, penso, e probabilmente anche dovuto al fatto che almeno con le ondate repressive degli ultimi 3 anni, ma anche quelle precedenti fatte nei confronti degli anarchici, soprattutto utilizzando reati associativi di associazione, di 270 bis e poi di associazione a delinquere, probabilmente non avevano ottenuto i risultati sperati, e in questo modo, con delle accuse così come queste, con delle condanne così pesanti, veramente questo è anche l'intenzione dello Stato, è anche quella di utilizzare queste condanne come monito per un movimento intero. Sì, questo sia abbastanza evidente. Sì, penso che sia abbastanza evidente, e da parte quindi del movimento anarchico in questo momento la discussione, diciamo, per l'azione politica in che direzione va? Come, scusa, ho sentito male. No, dico sì, come dire, che è un attacco e un monito per tutto il movimento anarchico, sembra palese. Ti chiedevo, insomma, la discussione, la riflessione del movimento in che direzione va, quali iniziative si pensa di prendere su queste condanne. Ma per il momento, cioè, ovviamente queste condanne sono arrivate poco più di una settimana fa, quindi adesso insomma stiamo cercando di iniziare a ragionare. Io ti posso fare anche delle valutazioni personali. Io penso che di sicuro insomma, l'aspetto repressivo in senso stretto nei confronti degli anarchici arriva da una repressione sociale più ampia, e questo lo abbiamo visto, penso, negli ultimi due anni, insomma, con un rafforzamento dello Stato evidente, una sua presa sul territorio, il controllo sulla popolazione, i lasciapassare, le zone rosse, l'utilizzo dei militari all'interno delle città per scopi di controllo interno, e la repressione dei movimenti studenteschi, quindi un'accelerazione repressiva è evidente. Nello specifico si concentra, a nostro parere, insomma, su la minoranza gente anarchica all'interno, insomma, di quel quadro repressivo lì, perché evidentemente è una minoranza che dà ancora fastidio e che si esprime in un certo modo, cerca la conflittualità, e questo soprattutto in un momento di crisi economica, impoverimento della popolazione e di guerra, sostanzialmente non può essere accettato dallo Stato. Comunque penso, in una fase come quella che stiamo vivendo, gli anarchici potrebbero avere qualcosa da dire, è meglio metterli subito a tacere, insomma. Senti, con Juan siete in contatto? Come sta? Insomma, abbiamo notizie di lui? Ma allora, c'è una notizia tra virgolette positiva, nel senso che lui aveva i colloqui con una compagna nel momento in cui, colloqui telefonici e poi vis-à-vis, nonostante gli avessero messo il vetro per un lungo periodo perché Juan aveva deciso di non vaccinarsi, poi gliel'hanno tolto qualche mese fa. Ma quando hanno aperto l'indagine rispetto al Tribunale di Sorveglianza di Trento nel febbraio di quest'anno, gli hanno nuovamente tolto, negato i colloqui sostanzialmente. Questa cosa qui si è risbloccata proprio qualche giorno fa, e quindi adesso può avere nuovamente i colloqui, per fortuna, insomma, almeno questo. Perciò sì, c'è una compagna che fa i colloqui con lui e almeno questo è riuscito a ottenerlo. Speriamo, insomma, di far avere a Juan, per quello che può essere, ma insomma la solidarietà di tutta la redazione di Radio Onda Rossa, ovviamente. Certamente, certamente. Poi vabbè, siamo in contatto epistolare con lui, quindi comunque gliela faremo avere anche a voce, faremo sapere, certo. Così come, insomma, la nostra solidarietà va a lui e a tutti i compagni e alle compagne che sono privati della libertà, e a tutti coloro e a tutte coloro che sono privati della libertà, insomma, da questi microfoni. Cerchiamo, insomma, di far arrivare la voce anche a loro, ma insomma ovviamente direttamente, per chi non è nella zona dell'FM romana non riusciamo a far arrivare la voce, lo facciamo arrivare magari con Scarceranda o con le lettere. Sì, io penso che, vabbè, se posso aggiungere due cose, certo, penso che ci sarà da ragionare molto e capire come far fronte, diciamo, a questo attacco nei nostri confronti, perché qua credo che si ponga proprio un problema di autodifesa collettiva che non va assolutamente sottovalutato, anzi bisogna, non lo so come dire, ma riscoprire anche qual è il valore della solidarietà, il valore vero della solidarietà, non solo quella fatta di slogan, diciamo, ma ma capire anche come, come cercare di contrattaccare e di non farsi distruggere da questi, attacchi. Penso che forse siamo abituati anche a pensare che sia tra virgolette ovvio che dei rivoluzionari nel corso della, loro storia, della loro attività, del loro modo di essere finiscano in carcere e anche per lunghi periodi, però qui si sta evidenziando una necessità, un'esigenza di rispondere in qualche modo. Sì, non c'è dubbio. Perché siamo alle strette. Non c'è dubbio, perché appunto la mano della cosiddetta giustizia è veramente molto, molto pesante, come stavi dicendo tu, in questo momento c'è bisogno insomma di una risposta di solidarietà all'interno sicuramente del movimento anarchico, ma anche nel resto insomma dei compagni e delle compagne, verso chi sta subendo, come dire, le mazzate veramente più, più forti, e poi di appunto ricompattarsi politicamente nella risposta a questo. Certo. E, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma i microfoni ovviamente sono aperti, noi cercheremo di seguire questa vicenda così come abbiamo fatto con Scriptamanent, ma insomma i microfoni di Radio Onda Rossa sono aperti. Certo. Beh, io vabbè, volevo dire solo che poi nel mio intervento adesso non mi sono soffermato sulla pericolosità e sulla gravità insomma del 41 bis che è stato disposto per Alfredo, perché so che avete fatto poi altri interventi a riguardo, ma penso che insomma è ovvio che si inserisce nello stesso contesto repressivo e quello a maggior ragione è un qualcosa per cui bisogna cercare di, sì, di alzare la testa, di, ma anche di, proprio di rispondere in maniera collettiva a questo, attacco che abbiamo fatto a lui nello specifico, ma penso a tutti, quanti. Questo senza dubbio, anche perché la pericolosità è per tutti e tutte quando si cominciano a utilizzare dispositivi, quelli previsti dal 41 bis o i reati che sono stati poi imputati a Juan, insomma si tratta di dispositivi che vengono usati, ma come, così come sono stati usati possono essere anche usati di nuovo, insomma. Certo. Vabbè, io penso che poi, cioè, rispetto proprio come stanno andando i tempi, che sembra che una richiesta fatta dalla, controparte non passi nemmeno più attraverso un processo o un qualche procedimento, ma venga semplicemente presa ed accettata, vuol dire che insomma i tempi sono piuttosto bui e bisogna farsi un po' di forza, un po' di coraggio e ragionare bene. Non c'è dubbio. Noi ti ringraziamo insomma per questo intervento, vi abbracciamo e soprattutto mandiamo un abbraccio a Juan in questo momento. Certo. Grazie mille a voi e vi abbraccio anch'io. Alla prossima. A risentirci, alla prossima. Dai. Buon viaggio. Ciao. Grazie. Sì, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zardins Magnetics. Allora, anche stasera abbiamo deciso di mandare questo contributo audio da Radio Onda Rossa, questa volta appunto sulla situazione di Juan. E contributo appunto che è stato andato in onda su Onda Rossa qualche giorno fa, e continuiamo parlando appunto di Juan. Specificamente volevo leggervi una dichiarazione che Juan ha fatto al Tribunale di Treviso il giorno sabato 11 giugno nel corso di un'udienza, diciamo era la penultima, insomma prima della sentenza, l'udienza durante la quale il PM aveva chiesto appunto i 28 anni per 280 bis, in quanto l'imputazione per il reato di strage è caduta, e appunto il PM aveva chiesto questi 28 anni che poi sono stati praticamente così recepiti dal giudice come se non ci fosse stata difesa. E questa dichiarazione di Juan è importante perché affronta in maniera approfondita la faccenda della videoconferenza, quindi praticamente della limitazione drastica del diritto alla difesa, ma non solo, anche di come un provvedimento come la videoconferenza, che è nato come provvedimento dei regimi differenziati, e si è diventato ormai la prassi, insomma, soprattutto dal 2020, con la scusa della gestione della pandemia, si è diventata una prassi comune per la maggior parte delle detenute e dei detenuti. Vi leggo la dichiarazione di Juan. In questa ennesima udienza in videoconferenza e dopo numerose richieste negate per comparire e presenziare di persona e non in assenza a tutte le udienze del processo che mi vede imputato della pesante e infamante accusa di strage, mi tocca affrontare la questione videoconferenza che rientra, o per essere più precisi, rientrava nella infame logica della differenziazione dei circuiti detentivi, dove l'individuo recluso e imputato viene demonizzato e disumanizzato data la cosiddetta notevole pericolosità sociale. Dico che rientrava perché la videoconferenza, il processo in assenza, sono stati estesi a tutte le prigioniere e a tutti i prigionieri delle carceri italiane, rimaste e rimasti di fatto senza una difesa reale e con l'emarginazione che ciò comporta per tutte le imputate e tutti gli imputati che subiscono questa imposizione attraverso la dinamica liberticida dell'ennesima emergenza, questa volta per l'emergenza Covid-19. Poi trasformata in legge. Si sa, è ormai evidente e smascherato, e non parlo solo della contraddizione del problema specifico di questa legge o quell'altra, come il problema specifico della videoconferenza abbia ridotto la difesa a una farsa, annullando di fatto l'imputato nel processo. Probabilmente questo tribunale dirà che queste questioni non c'entrano con il processo di oggi. Io invece ritengo di sì, anzi la ritengo una questione fondamentale. Lo vediamo nella stessa dinamica dell'emergenza perpetua, e il piano specifico della videoconferenza è uno dei tanti esempi di come si estende capillarmente l'autoritarismo sistemico liberticida. È l'eccezione, l'emergenza di oggi, a forgiare la legge di domani, restringendola ogni volta di più. I processi in videoconferenza, cioè in assenza, sono stati creati dalle continue emergenze nel seno della cosiddetta pericolosità sociale, ormai rientrata nella norma, come il processo in videoconferenza senza difesa reale per tutte le prigioniere e tutti i prigionieri delle carceri italiane. E non sono privi, sul piano specifico, di un danneggiamento reale delle condizioni dell'intero processo, rendendo difficile gestire la difesa reale degli imputati in contraddizione con quello che il vostro stesso diritto democratico e borghese sostiene. Questo processo tecnologico, di fatto, rende il processo parziale e rivela chiaramente in ogni aspetto delle nostre vite l'asservimento all'autorità statale capitalista, privando della possibilità di contestare, come una nuova religione da adorare, le varie innovazioni. DNA, videoconferenza, eccetera. Si intende la prova del DNA, il prelievo del DNA. In questo clima creato sulle incessanti emergenze, con l'emarginazione e l'annullamento dell'imputato e della difesa reale, che è ridotta al minimo, soprattutto per quella classe che non è borghese, per la classe degli esclusi. È così che arriva la videoconferenza con l'emergenza della pericolosità sociale. La colpevolezza è già evidenziata nei modi di questa forma di presentarsi e di presenziare. Ripeto che le leggi sulla videoconferenza sono un tentacolo che si è esteso di emergenza in emergenza fino a includere oggi ormai tutte le prigioniere e i prigionieri. Una dinamica assassina dello Stato che travisa e poi cancella questo contesto politico e sociale emergenziale come se fosse normale. Questa è la sistemica banalità del male dello Stato e così è avvenuta la continua emarginazione di migliaia di prigioniere e prigionieri e l'annullamento degli imputati. È sotto gli occhi di tutti cos'è avvenuto durante l'emergenza Covid-19 con i cosiddetti Novax. Lo Stato, per sostenere la sua emergenza continua, ha bisogno di capri espiatori. Allo stesso modo, nei processi come questo, gli è comodo inserire una mole sproporzionata e scorretta di documentazione inammissibile, che serve alle procure per indirizzare il processo verso la colpevolezza degli imputati. È una vecchia storia che si ripete da secoli. Sono le condizioni generali della società con l'emergenza Covid-19, con una gestione da parte dello Stato stragista e assassina e come adesso, guarda caso, lo Stato proroga l'emergenza di stato di guerra, sempre con la stessa gestione stragista e indiscriminata. Perché lo Stato non smentisce mai i propri metodi, semmai li perfeziona. Sono le bombe fabbricate e vendute nel mondo intero a qualsiasi regime da parte di Leonardo Finmeccanica, anche agli stati oggi in guerra e in ottimi affari con lo Stato italiano, a creare innumerevoli stragi per il loro profitto. Rendendo chiaro a tutti, se ancora ce ne fosse bisogno, la vera natura dello Stato che voi rappresentate, per cui non vedo con quale legittimità possiate accusarmi. Torniamo un attimo all'esempio della legge sulla videoconferenza per vederne lo sviluppo e di come le leggi emergenziali e le conseguenti forzature e travisamenti diventano poi infine norma e legge. La legge sulla videoconferenza arriva dall'emergenza per la cosiddetta pericolosità mafiosa e terroristica dal lontano 1998 per quelle e quelli sottoposti al 41 bis. La videoconferenza è stata introdotta mediante la legge numero 11 del gennaio del 1998, ispirata da Luciano Violante, governo Prodi. Le prigioniere e i prigionieri sottoposti al 41 bis sono stati costretti a subire questa legge liberticida e non hanno potuto partecipare ai processi, se non a distanza. I margini della difesa democratica e borghese sono stati ridotti a una farsa. Nel 2013-2014 l'ennesima emergenza, questa volta col pretesto delle presunte fughe di massa dalle carceri. La videoconferenza è stata estesa a tutte e tutti le prigioniere e i prigionieri, sottoposti al regime di alta sicurezza. Il problema della difesa è stato esteso a 10.000 prigioniere e prigionieri. L'emergenza inventata sul momento era che bisognava prevenire le fughe avvenute, che erano di fatto insignificanti, si potevano contare sulle dita di una mano. Le motivazioni erano politiche, risultato reale delle forzature e dei travisamenti creati dal pool antimafia e antiterrorismo. Da ricordare che questi pool sono stati creati a loro volta dallo stato d'emergenza e guarda caso poi diventati normalità per decenni, autoalimentandosi in automatico. Le motivazioni sono economiche, inoltre prodotto dell'ingolfamento della farraginosa e corrotta macchina burocratica dello Stato, come si è palesato con le questioni di corruzione del CSM, che sono questioni sistemiche e non di due mele marce. Poi, due anni fa, nel 2020, con l'emergenza Covid-19, con la gestione stragista all'interno delle carceri, con 15 prigionieri morti, con pestaggi e torture di centinaia di prigionieri, ecco che la videoconferenza è stata estesa infine a tutte le prigioniere e a tutti i prigionieri limitati dalla difesa farsa con l'articolo 11,3 del decreto legge numero 137 del 28 ottobre del 2020, convertito nella legge numero 176 del 2020. Ecco che si estende a tutte le prigioniere e a tutti i prigionieri, come alcuni prigionieri dell'alta sicurezza avevano denunciato nei processi del 2013 e 14, quando gli era stata imposta la videoconferenza, come faccio io stesso notare oggi qui a conferma di ciò. Tutto questo è l'ennesima conferma delle contraddizioni e delle sospensioni dei diritti fondamentali della vostra democrazia borghese, uno Stato per sua natura corporativo che difende solo ed esclusivamente la propria classe, e ciò viene evidenziato da questi alibi emergenziali applicati come fosse per il nostro bene e sicurezza. È palese come lo Stato difende sfacciatamente la sua classe, come dimostra l'esempio dell'assassinio di Younes El Boussaoui a Voghera per mano del leghista Massimo Adriatici, un uomo di Stato, un omicidio di un immigrato, un senza tetto, un escluso, a colpi di pistola con proiettili esplosivi, in mezzo ad una piazza, con il sostanziale silenzio complice unanime dell'autorità statale e della stampa, con la condiscendenza della magistratura, facendo passare questo omicidio per legittima difesa. Questo episodio rende bene l'idea di come lo Stato difende i suoi adepti e ci apre gli occhi sul razzismo e la corruzione sistemica dello Stato e della società capitalista, facendo passare tutto questo a noi poveri imbecilli come una questione minore, un problema di porto d'armi, invece di quello che è un assassinio razzista per mano di un uomo politico, con la complicità dell'autorità statale e non un caso individuale a sé. Ripeto, sono questioni sistemiche nello Stato, non di due mele marce, e oggi la Lega, partito di governo, si presenta qui come parte civile a farmi la morale. Questa esecuzione, come il caso Frapporti a Rovereto, Mastro Giovanni a Napoli, Aldrovandi e Cucchi e tanti altri casi mai venuti alla luce, prendono di mira tutti, la classe degli oppressi, ed è normale che sia così, visto il sistema in cui ci tocca vivere. Un sistema che prende continuamente di mira la totalità degli oppressi da secoli. È palese che il motto «la legge è uguale per tutti» si applica unicamente alla classe borghese che rappresentate. È per questo motivo che questo processo e qualsiasi Stato non mi rappresentano, viste le continue stragi della classe degli oppressi di cui io faccio parte e le continue falsificazioni e manipolazioni di cui lo Stato è responsabile. Per questo oggi rivendico la mia identità di anarchico, che ha motivazioni ben profonde, politiche e sociali, da un secolo e mezzo di lotta contro lo Stato stragista. Un anarchismo ribelle di prassi e di lotta, un anarchismo individuale che va al di là delle vostre falsità ipocrite. La mia consapevolezza di quello che è lo Stato stragista non può essere manipolata, perché da tanti anni la mia individualità non si rispecchia in quella di nessuna autorità, tantomeno quella dello Stato. Ho rinnegato, rifiutato lo Stato da anni, da quando ho consapevolezza del mio anarchismo non nutro fiducia su quello che si pone al di sopra di me. L'unico rapporto che ho con lo Stato è con la sua forza che mi imprigiona qui. Non ho fede in nessuno dei vostri fantasmi, rappresentati dal diritto e dalla ipocrita frase che la legge è uguale per tutti. Non sono uno stupido. Oggi, in modo assoluto, rifiuto questa farsa statale, rifiuto questo tribunale e qualsiasi verdetto, sia esso di colpevolezza o di innocenza. Oggi dichiaro che per me questo processo è finito e non vedrete più la mia immagine. Juan Sorroque Fernandez, 11 giugno 2022. Rifiuta di infamare, svende la tua memoria per una droga dello Stato, mercante la tua mente. Chiunque può essere internato, sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio ed essere prelevato, rinchiuso, drogato, annullato da farmaci che provocano la perdita dell'autocontrollo, delle azioni e del pensiero. Chiunque si rifiuta può essere sottoposto a continui ricoveri, reso assuefatto dai farmaci, sottoposto ad una metamorfosi della persona, spossessato della propria memoria, perdere l'autonomia del suo corpo. La loro cura, la repressione! Thank you. Ecco, e sul finire di questo brano volevo ricordare che questi e anche in precedenza sono gli FCT, una band di Nuoro, da questo loro split Infamidade e Tirannia, uno split 7 pollici uscito assieme ai Mister Murrungio. Comunque ci ascoltiamo ancora un brano degli FCT da Nuoro. Ciao a tutte e a tutti, siamo qui in via Volturno a Udine in diretta dagli studi di Radio Onde Furlane per Zardins Magnetics. Questa puntata appunto dedicata un po' alle problematiche della repressione sui compagni diciamo anarchici d'azione, e quando sono così appunto le 9 meno 6 minuti, e io vorrei andare a leggere una lettera che hanno scritto, è stata pubblicata oggi, diciamo io l'ho trovata oggi, hanno scritto due compagni imprigionati cileni, Monica e Francisco, e poi da lì fare così un percorso e ritornare in Italia, passare insomma in Europa e poi tornare in Italia. Cile, a 2 anni dall'inizio della nostra prigionia, lettera di Monica e Francisco. Abbiamo sempre dato importanza nel non avere mediazioni quando è il momento di comunicare, che nessuno e nessuna parla al nostro posto, e non faremo eccezioni in questi giorni, quando saranno 2 anni da quando chi sostiene l'egemonia del potere della forza ci ha imprigionato. L'indagine giudiziaria contro di noi non ha risparmiato risorse, la polizia si è data da fare per non lasciare niente di intentato. Si cerca di condannarci con una sentenza esemplare che terrorizzi chi mette in pratica la violenza politica, specialmente chi colloca e invia pacchi esplosivi. Inoltre, non siamo sconosciute e sconosciuti ai potenti. In più di un'occasione siamo state messe sul banco degli accusati, a ogni volta abbiamo chiarito il nostro porci come anarchici, la nostra situazione legale è legata ai nostri procedimenti passati. Molti anni fa decidemmo di percorrere i sentieri negatori dell'anarchia, intendendola come una tensione costante che nella sua dialettica costruttiva distruttiva non si pone come verità assoluta né come punto di arrivo. La nostra vita non è dissociata dal nostro enorme desiderio di voler vivere il più possibile in accordo con le nostre idee. Ci assumiamo tutte le contraddizioni che ciò comporta, così come le conseguenze. In queste lettere ci interessa ancora una volta esaltare e incoraggiare gli attacchi contro ogni espressione del potere. Affermiamo chiaramente che intendiamo gli atti di vendetta e sabotaggio come una urgente necessità la cui moltiplicazione e propagazione rafforza innegabilmente gli spazi e le posizioni di lotta anarchiche. Crediamo sia in gioco necessariamente la qualità del conflitto per abbandonare gli spazi confortevoli, per ampliare le prospettive e colpire dove fa più male. In questo senso salutiamo ogni azione esplosiva condotta nei recenti mesi che indubbiamente sono un contributo e un rafforzamento della guerriglia urbana anarchica. Ogni attacco al potere da una prospettiva anti-autoritaria è per noi valida. Si avvicina la data in cui saremo giudicati e giudicate. Sappiamo che ci sono possibilità di passare un lungo periodo sequestrati e sequestrate nelle prigioni dello Stato. Vi siamo preparate e preparati grazie all'appoggio fraterno di un numero senza fine di compagni e compagne che con ogni gesto cercano di illuminare la notte. In questi 2 anni di prigionia abbiamo fatto parte dell'iniziativa Prigionieri Anarchici e Sovversivi, concentrandoci sul ritorno nelle strade del nostro compagno Marcello Villarroel, ancora sotto la condanna della procura militare che continua a tenerlo in prigionia. Ottenere il ritorno sulle strade di Marcello sarà un trionfo che ci rafforzerà e sarà di beneficio a tutti i prigionieri della guerra sociale. La richiesta è moltiplicare le azioni e i gesti di solidarietà rivoluzionaria che permettono al nostro compagno di riprendersi le strade. Per noi lo scontro con il dominio non è finito, è solo cambiato di forma. Monica Caballero, carcere di San Miguel, Francisco Solar, carcere di La Gonzalira, Rancagua, luglio 2022. Allora, abbiamo letto questa lettera qui dei due compagni cileni. In Cile, tra l'altro, come in altri posti, c'è in questa fase un'autorità, un governo che si presenta con le sembianze più progressiste possibili, giovaniliste possibili, e sono quei momenti in cui l'apparenza inganna di più, in cui si può cadere nel... come è facile cadere nell'inganno appunto di essere giocati da queste promesse illusorie di riforme delle condizioni di vita degli oppressi, degli esclusi, delle escluse. E come in Cile, così anche in altri luoghi del pianeta sono vive, sono presenti le lotte determinate di questi compagni, che non esitano a colpire il potere in maniera significativa, facendogli dei danni non indifferenti. E mentre sono presi dall'azione, dall'iniziativa rivoluzionaria, questi compagni spesso negli anni, fra virgolette lo dico, si dimenticano di narrare la loro, il loro percorso, di dare una prospettiva storica al loro percorso. A tale proposito, circa un anno fa, veniamo in Italia, quando gli era ancora possibile, Alfredo Cospito era intervenuto rispetto a una pubblicazione, un libro dal titolo Il lavoro della talpa, e era intervenuto per fare delle sue, come altre volte, diciamo, significative considerazioni. Io appunto adesso estrapolo 10 righe del suo intervento, e poi appunto volevo approfittarne per andare a leggere delle pagine da quel libro. Dentro le stanze. Gli anarchici d'azione di solito trascurano l'introspezione storica. Gli anarchici che rimandano l'azione violenta, invece, tendono a riesumare esperienze lontane che più difficilmente potranno dare adito a ritorsioni penali e a imitazioni nell'oggi. Erano altri tempi. Questa frase mi rintrona ancora nella testa, ripetutami da ragazzo infinite volte da anarchici e anarchiche più coscienziosi, anarchiche e anarchici di altri tempi, appunto. Se la nostra storia non la scriviamo noi anarchici e anarchiche, lo faranno gli altri. Se la storiografia anarchica ignora l'attualità dell'anarchismo d'azione, col tempo sarà quella ufficiale a occuparsene, stravolgendola, mostrificandola. Poi ci sono dei casi fortunati, quanto rari, in cui ad occuparsene sono rivoluzionarie e rivoluzionari di altre, fra virgolette, scuole, come nel caso del libro Il lavoro della talpa, che viene presentato in queste iniziative, appunto, che risalivano a un anno fa circa. Io qui adesso mi fermo nella lettura di questo contributo, che se vi interessa ritrovate nel quindicennale anarchico Besmotivni del 21 giugno 2021, e facendo un piccolo inciso che appunto adesso Alfredo si trova al 41 bis e gli sarà praticamente impossibile intervenire anche per iscritto su qualsiasi cosa, ed è questo il motivo appunto del suo, la sua vitalità, insomma la sua reattività al dibattito, questo è il motivo per cui appunto la controparte ha deciso di metterlo nel, diciamo, seppellirlo vivo a Bancalis, in carcere in provincia di Sassari. Dunque, dal lavoro della talpa vado a leggervi appunto dei brani appunto che riguardano la lotta, diciamo, la lotta condotta dalle correnti anarchiche da partire dagli anni 90. Il libro ha un sottotitolo, Percorsi rivoluzionari in Italia dalla fine degli anni 80 ai giorni nostri. Praticamente riprende il discorso appunto di quelle organizzazioni combattenti, insomma, che sono state, hanno subito una significativa sconfitta negli anni 80, militare senz'altro, e come sono andate, diciamo, riorganizzandosi o insomma rideterminando i propri percorsi. Appunto c'è una grossa parte dedicata alle organizzazioni comuniste, poi però c'è anche un capitolo dedicata alle azioni anarchiche, agli attacchi di matrice anarchica. La cooperativa artigiana Fuoco e Affini, occasionalmente spettacolare, la Brigata 20 luglio, le cellule contro il capitale, le carceri, i carcerieri e le loro celle, apparvero sulla scia di Solidarietà Internazionale, che aveva rivendicato azioni in Europa e America Latina contro le carceri speciali, in particolare in appoggio alle lotte interne dei prigionieri spagnoli. La campagna contro la repressione diventava un filo conduttore primario per ovvi motivi, compresa la centralità che quest'area tende a dare al carcere e al mondo che vi ruota attorno. Per di più, questa fase conosce un passaggio molto forte sul piano politico-sociale generale, cioè il picco del primo movimento antiglobalizzazione nel 2001 e nel luglio del G8 di Genova. In particolare, in quelle giornate il movimento anarchico ha avuto una presenza fondamentale, soprattutto sul lato effettivamente antagonista, furono in gran parte gruppi anarchici a animare gli attacchi contro le forze della repressione, contro sedi, istituti di Stato e capitale. Questo in piazza, ma anche sul piano delle azioni clandestine armate, firmate soprattutto dalla cooperativa artigiana. Iniziative effettuate con determinazione e efficacia, anche in rappresaglia immediata contro le violenze di massa perpetrate dalla Sbirraglia fino all'uccisione di Carlo Giuliani. In questo modo la denuncia della prevalente linea pacifista e paraistituzionale affermatasi nel movimento No Global non restava pura enunciazione ideologica, ma si concretizzava in pratiche e indicazioni alternative, trasformava la tronfia celebrazione dei potenti della terra in un campo di battaglia di classe. Questo scontro di piazza segnò un preciso spartiacque polarizzando due aree principali. Una erede dell'autonomia, le tute bianche, e parte cospicua dei centri sociali, spaventata dalla violenza statale, si rifugiò nell'alveo istituzionale della sinistra parlamentare, o comunque in una simulata radicalità pacifista e compromissoria. La seconda era quella del movimento più conseguente che, pur fra posizioni differenti, si poneva all'orizzonte rivoluzionario assumendole le necessità e i rischi. Il rapporto con realtà militanti come quella cilena fece crescere sempre più la dimensione internazionalista operativa fino alla svolta del 2010. In quell'anno i nuclei armati greci, sull'onda dell'insorgenza sociale che scuoteva il paese e del confronto molto duro con la repressione, conobbero un certo sviluppo. Alcuni di loro, raccolti nella cospirazione delle cellule di fuoco, davano ulteriore impulso a forme di coordinamento oltre i confini. Nasceva il Fronte Rivoluzionario Internazionale, al quale si associava subito la rete FAI. Tant'è che, dal 2010 in poi, molti degli attacchi sono stati firmati col nome del singolo gruppo accompagnato dai due acronimi federativi. Anche in termini di contenuto, ci fu una sensibile evoluzione. Soprattutto l'apporto delle cellule greche accentuò i caratteri radicali di rottura totale col sistema, ma anche con qualsiasi forma politica della sinistra di classe, a loro avviso compromessa in rapporti istituzionali o ideologicamente succube del marxismo. Testi con evidenti e rivendicate punte nichiliste fondate sulla sfiducia verso le potenzialità rivoluzionarie insite nelle masse proletarie. Caratteri che delimitano questa tendenza rispetto a quella ben più anarco-comunista espressa da Lotta Rivoluzionaria, che si muove su una progettualità attenta alle possibilità di auto-organizzazione di massa, al suo possibile sviluppo verso uno sbocco insurrezionale. Per questo l'organizzazione interna alle dinamiche di classe, come supporto programmatico e politico-militare. Al contrario, le CCF si pongono in una logica di scontro totale senza alcuna preoccupazione politica, senza riguardo a processi, percorsi e altre diavolerie dialettiche. L'eco di questa impostazione si fece sentire in seno alla FAI, che continuava ad avanzare con le campagne tematiche, per giungere infine a compiere un salto qualitativo nel maggio 2012. intanto ci stiamo ascoltando in sottofondo, che anche abbiamo ascoltato nei precedenti interventi, i Franti, band dell'area torinese degli anni 80. Comunque ora andiamo ad ascoltare questa band di Gorizia, da un loro split datato 2015 assieme ad un'altra band sempre diciamo friulana, di Udine e Pordenone, che erano gli E New Scar. Comunque noi ci ascoltiamo i Warfare da Gorizia. Allora, concludiamo questa con i contributi, diciamo, parlati appunto sulla repressione, con la lettura di alcune parti di una lettera di Yannis Michailidis, detenuto anarchico in attesa di giudizio nel carcere di Malandrinos, in Grecia, e prigioniero che si trova in sciopero della fame da quasi 60 giorni, precisamente dal 23 maggio 2022, in quanto, nonostante diciamo lui abbia già scontato i 3/5 della sua pena di 20 anni, la pena complessiva, e i 2/5 della pena per evasione, cioè abbia già scontato 8 anni e 3 mesi di pena effettivamente effettiva, e nonostante che appunto la legge in Grecia preveda che a queste condizioni, tra l'altro lui è in attesa di giudizio, quindi ci sia la scarcerazione, insomma, comunque delle misure alternative, e queste misure gli vengono negate, e quindi Yannis ha deciso di intraprendere questo sciopero della fame a oltranza, e per la sua libertà, e chiaramente non solo per la sua. Allora, ci parla del processo educativo nel contesto dell'istruzione penitenziaria. Diciamo qualche parola sul sacro processo educativo nel contesto dell'istruzione penitenziaria. Dopo lo sciopero della fame del compagno Nikos Romanos, al quale ho avuto l'onore di partecipare per solidarietà, è stato conquistato il diritto al permesso di istruzione per tutti i detenuti, indipendentemente dal loro status. Così, dopo ritardi e procrastinazioni, passati 5 anni di prigionia, sono riuscito a frequentare i corsi della scuola di agraria di Atene per 1 anno e mezzo. Dopo 6 anni e mezzo, dato che sono già in un carcere rurale e avendo già ricevuto molti permessi scolastici per muovermi da lì, il procuratore di Tirinto decide che la mia università è lontana e quindi cancella i miei permessi. Mi illudono che mi daranno un permesso per l'esame, cosa che non avviene. Mi viene poi comunicato che cancelleranno anche i permessi regolari, sempre con un cavillo legale, il che significava che sarei tornato a stare chiuso in carcere, perdendo il mio prezioso stipendio. Vengo quindi spinto a fuggire di nuovo. Dopo essere stato ricatturato e aver fatto richiesta di trasferimento a Korydallos per motivi educativi, come previsto dalle loro leggi, il CEM, Comitato Centrale per i Trasferimenti, non potendo respingere le mie richieste, decide di non rispondere. nonostante siano obbligati per legge a rispondere entro 40 giorni. Io sto ancora aspettando e nonostante abbia seguito tutti i corsi teorici della mia scuola in condizioni avverse per i laboratori richiesta la presenza fisica, che a quanto pare non mi è consentita. Il 29 dicembre 2021, dopo aver scontato i 3/5 della mia pena di 20 anni e i 2/5 della pena per l'evasione, per un totale di 8 anni e 3 mesi di pena effettivamente scontata, la cancelleria del carcere mi chiama per firmare la domanda di libertà condizionale, come stabilito. Arriviamo ora all'ultimo episodio. Mi sono trovato a mia volta di fronte al classico meccanismo carcerario, quello di vendicarsi dei detenuti non sottomessi, rifiutando di concedere la libertà condizionata, nonostante la necessità di dover completare con successo il mio percorso scolastico e impedendomi di completarlo, e il fatto di aver già trovato un lavoro, ancora una volta con una scappatoia legale, questa volta con l'argomento della potenziale pericolosità come misura precauzionale, poiché non è passato abbastanza tempo perché io possa essere riabilitato e corretto. Dopo 8 anni e mezzo di carcere, dopo tutte queste azioni arbitrarie contro di me, ho deciso di porre fine ai miei 11 anni di sofferenza, erigendo una barricata alla pratica della carcerazione preventiva o alla pena aggiuntiva della fuga per cavilli legali. Dopo altri 5 mesi di detenzione preventiva ho iniziato uno sciopero della fame per il mio rilascio. Questa scelta, con la profonda motivazione della tanto anelata libertà, intendo sostenerla con la stessa coerenza con cui ho sostenuto le mie scelte fino ad ora e per le quali vengo punito per vendetta. È mio profondo desiderio che questo sciopero della fame diventi un ulteriore innesco per il rilascio, scusate, per il rilancio della lotta complessiva contro il capitale e gli stati. Visto l'attacco generalizzato che gli stati e il capitale hanno sferrato a tutti gli esseri viventi, compresa la nostra specie, è quanto mai necessario e opportuno organizzare e far avanzare la nostra resistenza, rifiutando qualsiasi forma di organizzazione gerarchica che renda la lotta vulnerabile alle manipolazioni, portando o alla riproduzione del sistema o alla sua assimilazione. Ecco perché in un momento così critico, la battaglia che sto conducendo per la mia libertà la intendo anche come un disperato tentativo di partecipare alla lotta più ampia da cui la mia lunga prigionia mi ha tagliato fuori. Per questo non voglio riferirmi solo al movimento, ma mi propongo piuttosto di ricollegare la lotta per la liberazione degli anarchici imprigionati alle idee che li hanno portati a scontrarsi con il sistema e che hanno causato la loro incarcerazione. Non cerco infatti l'interesse di nessuno in quanto vittima della repressione statale, ma come soggetto sociale politico attivo che vede la propria condizione di reclusione come parte dell'attacco dello Stato e del capitale a coloro che vi si oppongono consapevolmente. Mi riferisco piuttosto ad un rapporto di solidarietà rivoluzionaria sulla base di obiettivi comuni e di una lotta comune, da differenti angolature, che coordini la rabbia sentita da diverse persone che vivono condizioni diverse, ma per le stesse cause. E infine, sapendo che è possibile che questo sciopero sia l'ultima parte del mio percorso, desidero dargli proprio quella dimensione che mi rappresenta nella sua totalità. La lotta per la libertà di uno, la lotta per la libertà di tutti, fino alla distruzione dell'ultima gabbia. Questa era una lettera del primo che Yannis Michailidis ha scritto il 23 maggio 2022, quindi era il primo giorno di sciopero della fame. Come dicevo prima, ora la situazione è molto critica, in quanto è arrivato quasi a 60 giorni di sciopero della fame. Lunedì 25 luglio ci sarà un altro consiglio per decidere sulla concessione, insomma, della libertà condizionale. E sì, ricordiamo che con queste insomma numerosi giorni di sciopero della fame c'è il rischio di una compromissione letale, insomma, della salute, cioè è a rischio la vita. Nonostante ciò, lo Stato greco ha continuato imperterrito a ignorare completamente questa l'istanza di questo compagno, e sì, al quale va veramente tutta la solidarietà. Bene, questi erano i Warfare, band di Gorizia, che i brani che abbiamo ascoltato sono presi da questo 7 pollici split assieme ad una band tra Pordenone e Udine che si chiamavano A New Scar. Ora invece che siamo quasi al termine di questa trasmissione, che ricordo sempre che Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dai studi di Radio Onde Furlane fino alle ore 21:30, facciamo partire, prima dei saluti finali, questa band francese che si chiama Octopolype, insomma, che comunque si tratta di una band, più che una band, una one man band. Bene, allora sfumiamo questa one man band Octopulpe, band francese, anzi man francese, one man band, come si suol dire, e siamo comunque giunti al termine di questa trasmissione che ricorda ancora che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta fino alle ore 21:30. Siamo ormai giunti al termine, vi ricordo i nostri contatti, che se volete scriverci potete farlo con la, scrivendoci proprio a mano, insomma intestando tutto ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34 121, oppure potete farlo tramite posta elettronica, che è liberetutti@autistiche.org. inoltre potete anche seguirci su Telegram scrivendo a t.me/zardins, e comunque questa trasmissione potete riascoltarla, ma anche tutte le precedenti, nel blog che è zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì, e vi lascio con questa one man band che è Octopulpe. Not people, brains.